18-21, ma non me ammetto che si grava bene. Comunque già ce l'ho qualche ricambio a livello di finale, ce l'ho a livello di interruttori, qualche cosa, viraggio, qualche radio smontata, viraggio a Chiaravini, una dovevo cambiare un interruttore, Ravini me ne è parata in terra che c'era mia sorella pure e non ne so che Ravini, poi non vedevo bene, l'ho mollata e quindi ne ho due o tre smontate per filtri che funzionavano mi a livello di cosa si viene funzionava ne da voi giù la botta di sì fammi sapere di quei finali che mi interessano, poi ti ripeto, guardi quanto li avevi pagati e quello te l'ho detto, come li hai pagati io te li pago, non ti mettere problemi, già non ti pure problema, almeno i soldi dell'acquisto te li recuperi perché se come mi mandi la foto a metà di libero, come mi mandi la foto io prendo, vi controllo un po' le caratteristiche, vediamo un pochino se si possono montare in questo Saturneco, capito? Ehi, allora se mi viene male, se no la via balda davanti, aspettavi lì. Allora, in quel finale c'è scritto ICEM, ICE, comunque 1847, poi c'è scritto 2SC 1173. Di quelli ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2SC. Allora, aspetta che faccio la biletta, che non lo vedo. Me lo vedo. 2C. No, 2SC 1173. Ok, ma ti fa male mandami una foto su WhatsApp? Non c'è telefono. No, mia, ma te la mando, tanto ce l'ho qua. C'è anche il doppio modulatore, anche lì c'è un transistor adesso, ma non l'ho letto quello lì. A parte mando la foto così vediamo se vanno bene al Saturneco quei transistor. Ehi amico, adesso ti mando la foto di quei tipo potenziometri. Se te vuoi per montare quei potenziometri fammi avere la radio che o se no quando se decidi di vendere quei transistor te la prendo, cioè la prendo e te la controllo, così mi dai anche quell'altro MP4 e te lo intesto per il 48. Eia, mi sto cercando l'altro a vedere, però forse gli altri ce l'hanno nel cassetto dentro. No, vabbè, non ti preoccupare. Ok. Poi guardarlo anche domani mattina, magari si negano, e poi se decidi di darli prendo e domani salgo io e li prendo, capito? Così ti piglio il telefono da così. Ok, certo Gavi, adesso controllo quelli là, se no li controllo domani mattina, ma su questi mi sa ce li ho qua. Da voi ne aggiungo un LED, avevo comprato i LED da 3 mm e ce li ho rossi, blu, verdi, arancio, fucsia, tutti i colori, mi raggio. Quindi sono 2SC 1173, 2SC 1173, e poi in questa busta c'è questo qua, dovrebbe essere il mixer, poi c'è quei condensatori sono delle cocol, del doppio modulatore, è vero? Eia. E questo trasformatore dovrebbe essere di alimentazione, però tu lo sai. Sì, era il per mettere il doppio modulatore. Se tu vai su eBay, su Francotor, oppure scrivi doppio modulatore, te lo fa vedere. Già piazzato oppure da piazzare, capito? E l'avevo preso da lui perché avevo comprato la staffa per tenere la radio. Sì, ti manda la foto, ti manda la piastra con i condensatori, dai, qualche resistenza e poi tu ti devi saldare questa sorta di transistor e ha 3, 6, 9 punte, è un mixer, un trimmer e un transistor finale, un transistor, ed è un sì, questo è tutto quanto da montare e mettere sotto pasta termica, e questo qua va, lo sai, te lo danno così, perché questi vanno attaccati allo chassis, capito? Infatti avevo preso quello da montare, e tanto prendere quello là, alla fine mi era convenuto comprare su appiattato con la piastrina e tutto, però siccome la piastrina ce l'avevo, ho preso quello più economico, diciamo, va, piuttosto per provarlo. E poi c'ho mia, adesso ti mando la foto dell'Eco Colt originale, diciamo. Sì. Con questo qua ti fai la radio, col doppio modulatore e l'Eco Colt fai un baracchino, ti fai un 48. Infatti l'avevo preso per fare quel 48 normale, io a farlo un po' massiccio, dai, massiccio, però non l'ho mai fatto, sì, non avevo il tempo, poi ero a due ore, da buono non vedevo bene, è un casino, poi se non hai gli strumenti adatti, saldatore e cose che non sorgono bene, è un casino, capito? Comunque mia, adesso ti mando quella foto là. Sì, ma già, se questi qua ti vuoi fare il 48, questi qua ci vogliono due ore lì, e la radio è pronta, noi vi assai a piazzarle, tutta la roba prestampata, e basta, come c'ho, questi qua se non li vuoi dare, non li dare, che come c'ho la mezza giornata te li monto e ti fai la radio, e te c'è la radio bella. A me servono urgenti, servono i transistor, capito? Sì, no, ma per quello sali e te li prendi, non hai problemi, barista. Adesso ti mando la foto dell'altra schedina, sì. Quella là è il doppio modulatore con il trasformatorino, quell'ultimo con il relay giallo e Bip, Roger Bip. Adesso ti mando quella della Eco. Sì, dell'Eco Colt. Qua c'è tutto per modificare la radio. Qua c'è tutto, qua c'è il doppio modulatore, Eco Colt, Bip e trasformatori di alimentazione. Poi c'hai i transistor finali. Sì, è tutto. Questo qua dovrebbe essere l'Eco Colt, che gli ho messo i due stampati, quello a quattro piedini e l'altro a quello più lungo che c'è a fianco alla che si può sluciare, no? Poi quell'interruttore gliel'ho messo io per avercelo pronto, no? In modo da poter fare direttamente i tre fili, che avevo visto il video su YouTube però non l'ho mai piazzato, questo è facile, però non l'ho mai piazzato. E questo è il potenziometro, questo è un potenziometro per il Bip, ma per l'Eco. Ma è sempre un potenziometro originale, mi sembra che c'è scritto, adesso non mi ricordo se era 10K o 50K. 10K dovrebbe essere 10K. A 10K c'è scritto, 10K, che è un interruttorino originale, l'ho fatto da una radio. Dovrebbe essere, adesso non mi ricordo se è il Mickey Game o l'RF Game. Sì, intanto è per l'Eco, intanto è solo per l'Eco. No, questa scheda del Bip è bella, questa è fatta, questa è bellina. Sì, questa è bellina, questa è seria, poi anche di regolare le tonalità qua, lo sai. Se farlo secco un po' più lungo. E anche il trasformatorino è bello, dico, questo qua è il trasformatorino che serve per alimentare la radio quando ricambi il finale, siccome poi vabbè c'è da fare delle regolazioni del bias, c'è da fare qualche accorgimento, però già sono... Aspetta che guardo le specifiche di questi transistor un attimino. Ok. Forse fanno bene. Quelli ne ho, sì, ce n'è, 2, SC, 11, eccetera. C'è scritto anche nella bustina, ma con rigida la bustina. sì, forse vanno bene, forse per i finali, per il transistor finale va bene, forse, bisogna vedere, sì, devo mettermi con calma e vedermi tutte le cose, e vedere se sono equivalenti a quelli che ho io. Se sono uguali, asset e bill. Eia, perché quelli suoi sono il prefinale è il C1969, il finale di centro è il C1969, e il finale dell'angolo è il C1969, però hanno 03AC/CH, l'altro è 15ABH 14F-CH. Nel manuale di servizio ci sono i due SC2166C, il prefinale, capito? 2 SC2166C, e i finali sono 2 SC2312. Devo vedere se equivalgono questi due. Ho capito. Domani guardo gli altri due che ho nel cassetto, quelli non lo so se sono qualche numero che mi hai detto tu. Sì. Quindi il pilota è sempre il 2 SC2166. Quindi già avendo un 2 SC2166, già trovandolo, io sarei a posto, anche uno di quelli. Eia, allora se ce l'ho su, adesso guardo se ce l'ho, perché l'avevo presi da eBay quei due, adesso guardo se ce l'ho nel coso dei feedback, così ti dico che numero è. Eia, la penna la vuoi? Ce l'hai un pezzo di carta, una penna? Sì, ce l'ho, sta pure. Cioè li ho trovati anche originali. Adesso li ho trovati anche originali questi qua. Due pezzi 2SC2166 NPN in silicio, transistor Mitsubishi CS T0220, 14 euro a pezzo. Questi sono gli originali però, no, l'inserzione è scaduta, camiseria, ovvero è un casino. Infatti, allora, sto guardando, questo è di display Midland a vari colori, e adesso non lo trovo. Comunque domani mattina se li leggo quei due là e ti dico che numero hanno quei due là. Perfetto, però già, ma non ti preoccupare, non è una cosa urgente già. E tanto la radio è a posto in ricezione, quindi sta andando in ricezione in garage. Se ritrovo la faccio, altrimenti non ha giubbressa. Ok, comunque gli acceli, se ti servono gli acceli non ve ne è problemi, Bali. Sì, grazie. Adesso io ho preso l'appunto di questi finali che mi hai dato tu, che mi hai fatto avere tu la foto. E mi devo guardare le piedinature come sono, i valori di quelli là. E li devo confrontare, capito? Perché in internet scrivono che sono equivalenti, però bisogna sempre misurarli con la base, queste cose qua. E mi mi faccio una ricerca, due calcoli e vedo un pochino se riesco ad adattarli, se riesco a fare qualcosa anche attaccati allo chassis, poi con una schedina, mi segue, perché facevo anche quella modifica, e con un piccolo dissipatore, e vediamo un pochino. Eia, va bene, no, io li avevo presi quelli lì da un negozio di elettronica, non c'era scritto che erano equivalenti o non erano equivalenti, mi avevo solo segnato questa sigla e l'ho messa in quel negozio dove io compravo i componenti tipo elettronici, condensatorini, tipo esegocini, per fare piccole cose, tipo questi condensatorini che si attaccavano ai Twitter e che cose, quando... E niente, ho visto che ce li aveva tipo che erano di in offerta, mi sembra che avevo preso Siria, giù magari 6 euro di tessini, vai, 1 euro l'uno, capito? Quindi non ce n'è problema, se ti servono altri bigli, se così li provi, se vanno bene, non patenti, cosa li fai? Non sarà rito. Perché io avevo comprato i finali. Se dovessero servire, io avevo comprato i MOSFET per il 747, per l'amplificatorino, perché si era cotto, e avevo comprato i MOSFET suoi. E poi avevo comprato anche quelli di concorrenza per fare delle prove, i 520 si chiamano, sono, e devo dire che la differenza c'è, perché ho comprato gli originali, ho comprato i quelli di concorrenza, e l'avevo provato e con quelli di concorrenza dava 20 watt in meno, mentre quelli originali dai suoi 80-90 watt con 10 watt di ingresso, quindi gli altri 520 ce li ho, e poi ne ho anche altre 4 originali per il 747, ne ho un po' transistor, anch'io ho un po' di roba di componenti elettronici, un bel po' di roba, un bel di pezzi, però vai sempre chi su chi non ti serve. Come tutte le cose, no? No, io praticamente da questo negozietto di EB, che adesso mi sembra che non c'è più perché aveva fatto tipo cose, aveva svenduto tutto, e compravo qualche finalino lì per piazzarlo agli amplificatori stereo della macchina, capito? A cui amplificatori si usavano prima, quei Sonavox 150 più 150. E quindi quando si bruciavano magari una linea, la linea di destra, allora al posto di mettergliene due, glieli mettevo tutti e quattro, non vi dato, bruciavano una vesseria. Però ma risulti, quando scaldavano e aumentavi di più la potenza del coso, a rugiulia, ma risulti, capito? Forse magari perché io di elettronica non è che ne so, io brillo e pongo biazzo normale così, se va, se non va, lo lascio stare, cioè non è che... Non ho studiato elettronica né niente, quindi non ne so. Poi non mi ci sono mai messo nel campo a impegnarmi, io ero più sulla meccanica, capito? Sì, sì, sì. Aspetta, io avevo gli Audison. Io avevo due Audison belli e poi avevo il Clarion. Come se l'avevo il Clarion, era bello, bello, bello, bello, chissà che fine, chissà che l'avevo regalata, chissà radio, chissà amplificatori, perché poi avevo l'Audison, lo utilizzavo avevo un Audison 4 canali e lo utilizzavo per una bugia. L'Audison che avevo io era 4 canali, e facevo la parte di davanti, che poi avevo il crossover e faceva in portiera, questo ti parlo della lanciatema, e faceva woofer, midi, tweeter, ti andato in portiera, questo qua era. Poi nel pannello andava l'altro, andavano gli altri due canali, anche lì il crossover avevo il woofer da, due woofer da 30, i midi, le trom e gli alti, e poi avevo l'audison per il sub. Per il sub in cofano avevo un Boston Acoustic che era un 18 pollici, attaccato a schienare, fazia paura. Il condensatore da 2 farad, era avevo speso una barca di soldi da coso, da Sinfonia a Sassari, non so se te lo ricordi, un po' prima di Fusaro, la Sinfonia avevo preso una vacca di dinà, e poi l'avevo tenuto una quindicina d'anni, da macchina a macchina facevo, non mi aveva mai dato problemi. L'unico problema che mi aveva dato erano gli autoparlanti, erano sempre i bassi in portiera, che deve essere magari l'acqua, no? Mi scioglieva il come si dice, il fulcrum lì, e autopare dovevo sempre riconarli, perché poi, ma del resto quell'impianto non mi aveva mai dato un briciolo di problemi. Anche io ce l'avevo così, con il condensatore da 2 microfarad o 2 milioni di microfarad, con il displayerino. E da voi cosa avevo? Io ce l'avevo il subwoofer, era un Celestium da 32, perché quello lì era da 32, gli altri erano tutti 30 oppure 38. Poi cosa ci avevo? A livello di amplificatore ne avevo quello 150 più 150, che era per l'impianto di dentro la macchina, invece per il sub con il condensatore da 2000 microfarad, lì avevo, cosa c'era lì? Un non era Audison, era un'altra marca, era che si usava Infinity, forse c'era scritto, e funzionava bene. Sì, Infinity, quelli Infinity. No, io avevo preso due Audison, erano grandi, quelli erano la serie con la, erano quelli celestini cromati, dai, con avevano tipo la modenatura in legno, finto legno, perché poi era plastica, ed erano i manni larghi, e avevi tutti i tagli di impedenza, tutte le cose, ma l'avevo fatto a dovere quell'impianto, caspita, l'ha fatto, avevo il cavo da 12, dalla batteria ai finali c'era il cavo da 12, era bello, poi andava tutto al condensatore, poi al condensatore prendevo e uscivo, andavo ai finali. Tutto il cofano insonorizzato c'era, il cofano era insonorizzato, perché c'era quel cono che avevo io, era un 48 cm, era un 18 pollici, a doppia sospensione, a doppia bobina, ma suonava di un bene. Poi poi mi ero accorto che come andava il sub a fare escursione, mi mandava in saturazione i bassi del pannello, quindi mi avevano fatto, non io, un resinatore mi aveva fatto il doppio pannello sotto, in resina, bello, tutto bello sistemato, verniciato, il colore della verniciato, e fatta la moquette, proprio fatto bene, Maria è uscita dalla casa con questo pannello, con il litraggio che aveva calcolato il tipo di sinfonie, perché ho detto no, per questa macchina, per questi due woofer ci vogliono questi litraggi qua, allora mi aveva fatto il calcolo del litraggio dei coni, dal resinatore gli ho detto, ma mi serve questo litraggio qua in queste misure, e qua avevo risolto, bello. Ma Porto Torres mi avevano cambiato la batteria, l'alternatore, Mitti mi aveva messo l'alternatore più grande, perché io avevo il 2000 turbo benzina, e mi aveva messo l'alternatore del 2005 del 2004 turbo diesel che aveva più ampere, perché il 2000 turbo aveva 70 ampere di batteria, mentre il turbo diesel aveva 100 ampere, era 100 ampere la tema turbo diesel, e così ed era fatto un po' più bella la Z. Già lo so, ma prima si faziano questi cose, ora non le faziano più questi pizzini sotto tutti con il telefono con la cosa. Io nelle portiere e dietro c'avevo i woofer dell'acciare, i twister erano, adesso non mi ricordo cos'erano i twister, e poi ne avevo due davanti sul cruscotto che molte volte praticamente quando io accendevo la radio non si accendevano. Per accenderli dovevo usare questa specie di tac tac di chi si succhia a gas, capito? È quella specie di mattitone come il pulsante rosso. Prendevo quello lì, cliccavo quello sui Twitter e mi raccendevo. E cambiava la musica perché sentivi tutti gli effetti piatti e cose del genere. Però molte volte secondo che musica era, tipo, allora no, non li azionavo. E li azionavo con questa specie di matita dell'altura. Ma vi bene, me l'aveva fatto vedere un ragazzo di un paesino, mi ha detto se lo metti in questa maniera te li accendi tu quando vuoi, cliccando su questo coso metto come fa la scintilla si azionano lassù. E poi cosa c'avevo? Come cosa? Non avevo molta roba io nella macchina, l'impianto di stereo, perché non è che mi... cioè, io guardavo via il volume moderato giusto, non dovevo andare a fare tipo corse di rugoso. Quando noi andavamo a fare il tuning io facevo solo esposizione carrozzeria e interno e esterno. Impianto stereo sì, però era a livello normale, non era a livello, capito? E poi cosa c'era? A livello di stereo c'avevo l'Alpine, un Alpine. Sì, no, ma neanche io no, io ho mai fatto roba del genere. Già, guarda, io quella roba lì l'avevo comprata per la tema, e poi ero passato dalla tema alla 75, poi dalla 75 l'avevo smontati, perché la verità della 75 l'avevo montati però non suonava perché aveva il pannello troppo piccolo e poi non andava bene in portiera, quella roba non si poteva mettere, quindi era rimasta ferma un po'. Poi avevo preso la 147 e l'avevo montato nella 147. La 147 fazia paura. La 147 era, cioè, il ruoto posteriore era bello dritto e fazia paura. E dopo dalla 147 l'avevo cambiata perché mi era uscita l'occasione, l'avevo montata nel 166, nel 166 suonava come la tema, uguale, suonava, però nel 166 l'utilizzo sempre basso a chi io c'avevo quello che c'avevo io era il motore busso e quindi dipende intendere un motore, no? E allora niente, era sempre, ma poi non lo alzavo neanche mai, cioè mai, a parte quando andavo, mai facevo qualche viaggetto, un lunghetto, e allora aveva anche qualche pezzo che mi piaceva, e allora davo un po' di volume, ma in città mai, in città non era un po' di, cioè già mi piaceva la musica, cioè, però non, primo periodo vi giudichi in base nata una divisa invece Bulukov nei dati dove sentini comunque ragazzate noi avevo tutto i diffusori sono tutti dalla Boston Acoustic gli amplificatori erano gli Audison e lo stereo era, avevo comprato il primo stereo era il Clarion e poi avevo sentito un Macrom e avevo venduto il Clarion e il Clarion avevo venduto e avevo comprato un Macrom, e il Macrom l'avevo regalato, mi sa, o mio fratello quando aveva preso la patente. Comunque quell'impianto solamente l'avevo rodato a mio fratello quando aveva preso la patente, io non ne avevo più sapere, ha detto che ho piglia di tutto e poi non lo so che fine ha fatto. Ma infatti prima era così, ma neanche io a livello di volume, io lo tenevo normale il volume, tanto ascoltavo molte volte Radio Italia, Radio del Golfo, a livello di tipo CD o musiche in chiavetta erano magari quelle, le hit dell'estate, che così le musiche del momento. Però come dicevi tu, a me mi imbibia di sentire un storia, accelerenni, sarenni, scoppiettenni, quindi non è che anche io stavo a volume, magari se andavamo a pescare all'Alto Fondale o a Molo Asia, Vistizzoni, che magari con la scusa, allora mettevamo un po' di musica, però ad Abilio mi sembra di sentire un po' la macchina, che se non è andato via qui, si tirava o Iuia di corrente, capito? E poi c'era un ragazzo che quando andavo a fare tipo i raduni di autotuning, io perché con la scusa avevo un negozietto, molte volte andavamo perché ci divertivamo anche. E questo ragazzo qua praticamente aveva una sorta di, metteva un filo, una batteria da 1,5 e praticamente dice che riteneva la tensione costante quando faceva suonare l'impianto. Glielo aumentava, mi sembra, non so, di tipo 1 o 2 watt, però dice che glielo teneva costante con questa batteria con la sfida da 1,5. Boh, questo non te lo so dire. Io non potevo, io da fermo, a me mi scaricava la batteria da 100 ampere, se me la scaricava per un'ora. Se lo tenevo magari anche un po' altino, scampagnato, non ti si va via, un'ora mi teneva, mi spegneva la, dove venivano i gavetti. Il bel sound in macchina, io non so se tu te lo ricordi adesso, lo sai chi ce l'aveva, scendeva l'ottava un tipo con la Megane gialla, te la ricordi? Ehi, quello è Bacchisio, c'aveva la Megane Coach gialla, però la seconda serie lui aveva, tutta canta modificata, cosa, ma le grassi gliel'aveva fatta, giallo pastello originale. E avevo venduto il contachilometri a Tiravia e Paccardo insieme al cambio delle marce. Esatto. Quello aveva un impianto, faceva paura. E Bacchisio era fuori di gabbo, che poi non ho mai capito se era la sua o se era del fratello la macchina, perché ultimamente, non ultimamente adesso, all'epoca scendeva a Sorso, che aveva una ragazza a Sorso in via Marina, e quindi vabbè, io a lui l'avevo conosciuto in un raduno ad Alghero, alla pista del Corallo, che c'era un raduno di auto e c'era anche lui, e quindi si è avvicinato a vedere la mia, e lui aveva tutte le minigonne Cadamundo, il cofano, i paraurti, invece i miei erano fatti tutti un po' artigianali, però fatti bene. Poi avevo il tappo della benzina, che era dell'RSV1000 nel fianco della macchina, i freni a disco della GT Turbo dietro, mentre lui aveva i tamburi. Poi avevo le pinze e i dischi da 2,89, perché li avevo montato le pinze e i dischi della Scenic, quella monovolume della 2000, l'avevo trovata al ferrovecchio lì a Porto Torres, da, come si chiama quello lì, da Carlisi, da Roberto, lì nella zona industriale, me l'aveva dato una fesseria, perché c'era un ragazzo che aveva una 500 modello vecchio, e gli avevo portato un carburatore Solex nuovo, da piazzarselo nella 500 vecchio. E allora mi ha detto, oh, già ti posso sudare, tu mi dammi quei dischi e quelle pinze che mi servono. Vabbè, e mi avevo piazzato quelli, lui a cosa frenava, chissà mai. Allora, quando tu acceleravi e frenava, un bel, quando pioveva dovevi stare attento, anche se no ci davano tutte e quattro rughe. Sì, sì, sì, nell'impianto frenante era la prima cosa, quando no, io avevo preso e avevo la mia prima macchina, era la tema è stata appena patentato, l'ho comprato la tema turbo, era bella, era grigio fumo, tetto apribile, e la serie con i sedili, la mia la serie con i sedili in Alcantara bianchi, era già il modello con lo sterzo in radica, tutti quei, diciamo, i sensori erano con la rifinitura in radica, poi l'avevo messo l'assetto, l'avevo messo le molle Eibach e gli ammortizzatori Bilstein, cerchi da 16 a spalla bassa, forse te la ricordi, perché avevo messo i cerchi, erano cerchi da 15 del Deltone. Erano cerchi da 15 e del tono, però cerchi da 15 e del tono erano bianchi. E li avevo fatti verniciare in grigio, quel grigio chiaro del classico cerchio in lega. E più distanziali da 0,5, proprio una carreggiata era fase a baula. E poi io ero fissato con un Goodyear, facevo l'F1, cioè facevano una carreggiata la macchina perché allargavano la spalla, capito? Facevano una carreggiata, era bella, era rigida, dolce, la barra duomi davanti e dietro, un go-kart, poi era 2000 turbo, aveva 205 cavalli, tirava che una mara sushi. Già lo so, già. No, quelle gomme, quelle delle Goodyear, poi c'erano anche quelle Yokohama A520. Ui, ma non so, non ci consumavo di queste gomme, da che erano, cioè andavano bene in estate, in inverno non tanto, ma in estate andavano bene, quindi ti piaceva un po' guandani a sta rasulendi, che poi rasulavo i ribettarini tipo qua, quando io tipo scendevo a Marrista da sotto, scendevo da Viale Castelsardo, quindi tutte quelle curvettine lì, secondo che ora era, ci scendevo a tappa, che prima varava a campagna, da poi varavamo tipo a Punta Tramontana, con la canna da pesca, a fare due salaghetti, due gosi, a San Vincenzo con la Migli, ed era stoco, anche io ci avevo nella Megane, però le molle mie della Megane, all'epoca non mi ricordo chi era, me le aveva portate il ricambista di sotto, Pietro Sì, ed erano delle BTP o BTB, belle mie, non erano né basse né troppo alte, forse erano 3 cm più basse o 2 cm e mezzo. Poi avevo messo gli ammortizzatori, io avevo i coni Holland, quelli gialli regolabili, li avevo comprati da Benissimo, insieme ai sedili e ai sottoporta, le minigonne aggiuntive. E poi cosa c'erano? Le mole, gli ammortizzatori, la marmitta era una Ragazzon gruppo N, con il centrale artigianale, senza filtro, senza gozzi di bugie. Poi mi avevo comprato i collettori d'acciaio davanti, quei 4 2 in 1, e niente, l'aspirazione diretta, che quando accelerava il barile, una digre barile, e non consumava neanche tanto, mi, perché centralina non ne ho mai fatto, perché avevo letto che la Siemens era tipo 8-40, quindi per esempio arrivavi al limitatore, che la mia, la Megane al limitatore arrivava a 6700 giri, non arrivava neanche a 7000 giri, 6700 giri, e poi mano a mano sono riuscito a farla arrivare a 6000 e quasi 900 giri, perché a figlia di Trastalla magari si autogestiva, no? Però invece il Clio di mio fratello, che lui allora, prima di avere il 16 valvole della Clio, aveva la 1400 Sport, quella aveva 80 cavalli e scendeva 8000 giri la centralina, fuori di testa, cioè più di la, forse la mia perché aveva il cambio un po' più lungo, o magari la corsa del motore era corsa alta, mentre il 1400 è a corsa bassa. Comunque, quando rasuravo la Clio 1400 Sport, che scendeva 8000 giri la centralina, buia, non ce n'è. La mia aveva un'altra apertura, nel senso che rimaneva tipo un po' più grossa come apertura e un pochino più lenta, invece il tuo rimaneva più fine, più, come si dice, forse perché aveva i cerchi da 13 la Clio, mentre il Megane usciva con i cerchi da 14, ma non penso che variava per quello, perché alla fine era una questione solo di elettronica, perché la mia era una Siemens, mi sembra, invece quella del Clio era un Bosch. Lui c'entra anche il cambio, anche i rapporti del cambio. La Clio già aveva i rapporti corti, ma l'adesione c'aveva anche una piccola Clio 1004 bianca, aveva il cofano della Williams, aveva trovato un cofano di Williams incidentato e lo aveva fatto un carrozzino, era tutto accunzato e vi si era appoggiato sotto. Poi da questa Williams avevano recuperato tutti i fianchi, tutte le cose, però era la 1004 e te ne accorgevi perché aveva i cerchi da 14, mi sa era, o 13 o 14, te ne accorgevi dalla sezione delle gomme, però lì carrozzata era Williams, però te ne accorgevi dai cerchi, e durante i fendi di cerchi di Romille almeno del 1816 valvole, però non li ha mai trovati, quelli che trovavo erano dilaniati, a chi rusai come ti trattavano i simacchi. Io da Pirissa avevo preso la Popoff, avevo preso una Popoff, una buona lume, era parione in pulla, leva 2 litri. Quando mollavo, quando davo, ma proprio era, poi la mira era delicata, proprio, cioè, come mollavo, cioè, ma proprio forte, me l'avevo tenuta forse 3-4 mesi, da poi ogni posto di blocco ero vemo, che ti diano i sabopoff, che ti diano le cose, che si imbuffati, e lo scarico avevo un ragazzo, sempre, un ragazzo da 100. Proprio per la tema, anzi quello che avevo preso io allora era già uscita la K, lo scarico che avevo preso io era della Lancia K, però era uguale come montaggio, però era di Lancia K, tant'è vero che della K costava mi sembra intorno ai 500.000 lire o 500 euro, adesso non mi ricordo bene, mentre quella da tema costava quasi un milione, quasi 1.000 euro, costava il doppio. Infatti avevo preso quella da cappa, ma andava bene. E va bene, vai già, riprendi, e a voi mi zigoco. Eia, andava, dai, mi così anche io, tanto mi adesso stacco, che così mi faccio quella terapia, e cosa ti posso dire, buonanotte Gabbi, andava per la giacciarada, almeno abbiamo impiegato un po' di tempo, e niente, adesso domani ti controllo quei finalini e poi ti faccio sapere, andava, dai. Allora, buonanotte e buon tutto, ci sentiamo alle prossime, ciao Gavi, buonanotte. Sì, ciao già, ma senza fretta, se non è domani è lunedì, non ti preoccupare, no? Non c'è anche chi vi ha mattanato il debito. Tanto io faccio una ricerca accurata di quello che dei valori di questi transistor e poi mi guardo il montaggio di... Ma se ti sono arrivate con le istruzioni è una fesseria montarle già, magari poi se te le vuoi montare mi lasci il 48 e te la monto quella scheda e ti fai delle prove, o se no vediamo un po' quella che ti è arrivata già con queste schedine dentro, se ha qualche modifica fatta, non lo so. Comunque, vedi un po' tu, io adesso mi faccio una ricerca di questi, ti ripeto, di queste schivi qua, di queste piedinature e poi tu domani come controlli, o domani, lunedì o martedì, quando mi dici, mica ho guardato, sono la sigla è questa qua dei transistor, ok? Ciao, grazie già, buonanotte. Ehi, gaffa, buonanotte, già ci sentiamo, tanto ce li ho nella scrivania di là, domani che li guardo. Ok, dai. alla prossima. Ciao Gabri, buonanotte. Ciao.